Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Gli italiani danno fondo agli incentivi, era già chiaro da qualche settimana, ne avevamo tra l'altro parlato anche nel corso della nostra precedente puntata della trasmissione, ora è ufficiale, i fondi per gli incentivi auto 2020, quelli riferiti ad una specifica fascia di emissioni, sono già finiti. I 100 milioni destinati alla fascia tra i 91 e i 110 grammi per chilometro, parliamo di emissioni di CO2, fascia che comprende anche molte city car e utilitarie, sono infatti andati esauriti in meno di un mese. Il governo non ha ancora preso posizione al riguardo, ma le possibili soluzioni sono state già prospettate da un RAE la scorsa settimana ai nostri microfoni. Si stanziano nuovi fondi o si rende più flessibile il sistema delle fasce creando un fondo unico. La Nissan Micra sarà sviluppata e prodotta da Renault. Si fa più forte la sinergia della casa giapponese con Renault e Mitsubishi e nell'ottica di un taglio dei costi necessario per il momento di crisi che il brand sta attraversando, Nissan affida a Renault la quinta generazione di Micra, attesa per il 2022. La casa francese avrà carta bianca, come si dice, sull'utilitaria, potrà assumere tutte le decisioni chiave in completa autonomia a partire dallo stabilimento di produzione. Tutto confermato per l'edizione 2020 di MIMO, il Milano Monza Open Air Motor Show si prepara ad una edizione autunnale dal 29 ottobre al 1 novembre a cielo aperto. Le esposizioni popoleranno le piazze e le vie della città di Milano, mentre a Monza e al suo autodromo saranno destinate le attività dinamiche e le Formula 1. Piazza Duomo la farà da protagonista per le nuove proposte dei brand, mentre il Castello Sforzesco e la piazza Città di Lombardia ospiteranno Focus, Green e auto storiche. Avete presente il tipico e soddisfacente odore di nuovo che hanno le auto appena acquistate? Siate pronti a dirgli addio perché non è eco-friendly. Le sostanze utilizzate per gli abitacoli che generano questo odore tanto evocativo potrebbero essere presto vietate in nome dell'ambiente e della salute. Sì, perché come è trapelato da un'inchiesta del periodico inglese Autocar, l'odore di nuovo è dato da ben 8 sostanze chimiche tossiche, tra cui benzene e formaldeide, che sono senza dubbio inquinanti e che potrebbero addirittura danneggiare la salute degli automobilisti, creando anche reazioni allergiche. È in pieno svolgimento la Settimana Europea della Mobilità 2020, l'iniziativa che con migliaia di eventi e dibattiti cerca ogni anno di sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile. Ascoltiamo la scheda. È giunta quest'anno alla sua 19ª edizione la Settimana Europea della Mobilità, l'appuntamento dedicato alle amministrazioni e ai cittadini impegnati nella strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita. Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, migliaia di città e milioni di cittadini europei, attraverso eventi, webinar e dibattiti, festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita. Quest'anno il tema centrale è Emissioni zero, mobilità per tutti e riflette l'ambizioso obiettivo di un continente che punta a diventare carbon neutral entro il 2050. Così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del Green Deal europeo. E cambiamo argomento, parliamo di pneumatici. Ormai si sta allontanando lentamente, diciamo, la stagione estiva, ci stiamo avvicinando all'autunno e poi all'inverno, è il caso di cominciare a parlare di sicurezza. Con oggi cominciamo anche una serie di approfondimenti su questo tema, quello degli pneumatici, un tema fondamentale a volte un po' sottovalutato, e ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Angelo Giandelli, Country Manager Italia di Nokian Tyres. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera. buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, cominciamo con il parlare di sicurezza. Ormai anche gli pneumatici, come tutti gli altri componenti delle auto, subiscono delle evoluzioni, delle trasformazioni importanti. Abbiamo mescole sempre più interessanti da un punto di vista della tenuta di strada e della resistenza. Abbiamo nuove tecnologie applicate alle gomme. Insomma, cosa sta succedendo in generale in questo settore? E diciamo che anche il nostro settore negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione incredibile, le esigenze degli utenti sono sempre maggiori, l'introduzione di nuovi modelli, nuove misure sempre più grosse rendono naturalmente per noi una grande sfida, cioè rimanere tecnologicamente all'avanguardia. Ormai le condizioni climatiche sono un po' strane, in quanto non si hanno più inverni molto freddi, e di conseguenza anche nel periodo invernale, per noi ad esempio che siamo gli inventori del pneumatico invernale, siamo costretti a creare mescole che abbiano un impiego differente, un impiego sì nell'utilizzo invernale, ma poi anche in condizioni climatiche molto molto più miti. Proprio gli inverni rigidi della profonda Europa del Nord, da cui nasce appunto il vostro brand, sono un test importante per questi pneumatici. Lì però le condizioni sono davvero estreme, altro che in Italia. Sì, assolutamente. Infatti noi sviluppiamo i nostri prodotti per quanto riguarda le proprietà invernali in Lapponia, ad un'altitudine tale dove l'inverno è presente per 6-7 mesi all'anno, ma allo stesso tempo poi per le proprietà summer estive facciamo dei test in paesi un pochetto più caldi, molto più caldi, come la Spagna, come la Germania, come la Francia. Tra breve avremo un nuovo centro, un test center completamente nuovo in Spagna, proprio per testare i nostri pneumatici a temperature molto elevate, temperature che si simili a quelle che noi abbiamo ad esempio in Italia durante il periodo estivo. Non c'è più la mezza stagione, direbbe qualcuno, però i pneumatici continuano a mantenere questa rigidità nelle stagioni, quindi abbiamo gli pneumatici estivi e quelli invernali. Ma come sta andando invece il mercato degli all seasons? Ma direi che è un nuovo settore in forte crescita, in un momento in cui le vendite dei pneumatici winter e dei pneumatici summer ha un lieve calo, il pneumatico all season ha un'enorme richiesta. Richiesta dovuta al fatto, ripeto, che ormai il clima è molto più mite anche in Italia, anche al nord ad esempio, ormai sempre più raramente chi risiede ad esempio a Milano durante il periodo invernale vede la neve. Di conseguenza c'è richiesta di questi pneumatici che hanno avuto uno sviluppo notevole da quando sono usciti per la prima volta, perché all'inizio è chiaro che i primi pneumatici all season avevano grosse difficoltà in presenza di neve, ad esempio, di ghiaccio, di condizioni estreme, allo stesso tempo erano anche difficoltà con temperature molto elevate. Ormai le mescole che noi sviluppiamo tendono a dare una sicurezza di grip anche durante il periodo invernale, anche in condizioni diciamo estreme, e allo stesso tempo dare quella guidabilità che si gode quando si può guidare con temperature elevate nella bella stagione. Ecco, tra i vari nuovi prodotti che voi promuovete c'è la serie Season Proof, che prevede anche degli pneumatici specifici per i SUV. Noi sappiamo benissimo che i SUV sono delle auto che sono particolarmente utilizzate dagli italiani. E allora, quali caratteristiche hanno questi pneumatici? Sì, abbiamo appena presentato il Season Proof, che è il nostro nuovo pneumatico all season, che sarà disponibile in ottobre nelle prime misure, ma in tutta la gamma, quindi anche nella gamma SUV, a partire dal prossimo gennaio. Le caratteristiche sono molte, ma in particolar modo diciamo che abbiamo aumentato quelle che erano le proprietà summer del prodotto. Cioè, il precedente prodotto aveva un'ottima resa in condizioni di winter, invernali, abbiamo tenuto le stesse proprietà, ma abbiamo aumentato notevolmente la guidabilità in condizioni estive, in condizioni di caldo. Allo stesso tempo, ad esempio, la gamma SUV ha molte particolarità, tra cui siamo gli unici a produrre i pneumatici SUV con il fianco in aramide, L'aramide è una fibra che sostituisce ormai in campo aeronautico nei giubbotti antiproiettile il Kevlar, quindi molto leggera e molto resistente, e noi abbiamo inserito questa fibra nella mescola della spalla, del fianco dei pneumatici SUV per dargli una maggiore resistenza, perché normalmente l'utilizzatore di SUV, essendo un veicolo molto alto, tende a prendere marciapiedi, a fare dello sterrato, certo, quindi delle pietre che possono creare dei danni. Inoltre questo Season Proof nuovo ha una mescola completamente nuova, abbiamo ridotto la resistenza al rotolamento, quindi maggior risparmio di carburante, cosa molto importante, minor inquinamento. Insomma, abbiamo portato quelle che sono tutte le nostre tecnologie all'interno di questo prodotto. Bene, allora ringraziamo e salutiamo il nostro primo ospite, Angelo Giandelli, Country Manager Italia di Nokian Tyres. Noi continueremo ad occuparci di pneumatici anche nel corso dei prossimi appuntamenti, però nella seconda parte di oggi ci occuperemo di case costruttrici, parleremo di Seat. Questa settimana presentazione in Italia della nuova Teca e della Tarraco FR, è stata questa l'occasione per fare il punto con il direttore generale di Seat Italia, Pier Antonio Vianello, della situazione del mercato italiano, ma anche delle ultime novità della casa spagnola e della sorella Cupra. Tutto questo lo ascolteremo tra poco nella seconda parte di Strade e Motori. Restate con noi. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, approfondimento questo dedicato a Seat, alla presenza di Seat in Italia. C'è stato il lancio della nuova Teca e della Tarraco FR, è stata l'occasione anche per fare un po' il punto della presenza del brand spagnolo di gruppo Volkswagen nel nostro paese, di Seat e Cupra, e noi questo punto lo facciamo in compagnia di Pier Antonio Vianello, che è il direttore di Seat Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Allora, cosa vedremo da qui alle prossime settimane, quindi diciamo da qui a fine ottobre in Italia per quanto riguarda questi due brand? Buonasera e grazie per l'opportunità. Per noi questo è un anno importantissimo perché stiamo reagendo il più possibile alla ripartenza del nostro paese, anche perché questo va a essere un anno significativo, no, per i nostri marchi, in quanto abbiamo appena lanciato dopo il lockdown la nuova Seat Leon, la nuova Seat Leon Sport Tourer. Adesso qui con te stiamo lanciando la nuova Teca, la versione Tarraco FR, e poi a breve, quindi parliamo di un mese, quindi parliamo di ottobre, lanceremo il primo modello nativo Cupra, quindi Cupra Formentor. Quindi capite bene quanto possa essere fondamentale questa fine anno per noi. E tra l'altro poi tutte queste automobili le lanceremo con la versione mild hybrid come Seat Leon, oppure con le versioni ibride plug-in, quindi parliamo della gamma Cupra. Quindi ci stiamo avventurando verso dei lanci che coinvolgeranno sia i nostri team a livello di rete organizzativa, e speriamo che interessino anche il pubblico per avere nuovi clienti. Ecco, Cupra è ormai diventato un brand del gruppo Volkswagen, e la vostra parte sportiva, c'è stato un forte investimento su questo brand, e è un brand che sta tra l'altro rafforzando la propria presenza in Italia. Come? Sì, il marchio è riconosciuto ormai come uno dei marchi del gruppo Volkswagen, quindi non è più una costola sportiva della Seat, e avrà un suo posizionamento molto preciso, avrà una sua gamma, quindi lanceremo 5 modelli nei prossimi periodi, quindi avrà una sua identità molto forte. Con Formentor questa identità sarà molto marcata, in quanto la vettura sarà solo Cupra. Per questo abbiamo anche lavorato con i concessionari, quindi lato business stiamo creando una squadra completamente nuova, noi li chiamiamo i Cooper Master, per cui delle persone che si occuperanno di questi potenziali clienti e della vendita di queste nuove auto e che vedranno una funzione molto allargata, no? della forza vendita, dove il venditore non sarà più solo quello, il venditore da salone, ma sarà un venditore innanzitutto collegato con tutti gli strumenti informatici e social. Sarà una persona che seguirà il potenziale cliente o il cliente anche non solo nel contratto, ma in tutto quello che può caratterizzare il vissuto, no? Nell'esperienza di un acquisto o del possesso di un'automobile. La prima Formentor arriverà con 310 cavalli, una potenza importante per il mercato italiano, ma è già prevista una versione plug-in hybrid con cui fare i conti, soprattutto dal punto di vista fiscale. Sì, abbiamo fatto una scelta di questo tipo, no? Quindi per chiarire subito qual è il posizionamento di Formentor, partiamo con quella che in questo momento, perché ci saranno anche altre novità, la versione più sportiva, quindi 2000, 310 cavalli, 4Drive, DSG, tra l'altro la versione di lancio anche poi ha un colore speciale, allestimenti completi, quindi ci siamo veramente dati da fare per posizionare l'auto, e questo però non significa che l'auto con le stesse caratteristiche estetiche potrà essere offerta in versioni diverse, quindi abbiamo sì un ibrido plug-in, che avrà anche due livelli diversi di potenza, per cui potrà essere scelta per motivi, diciamo, di percorrenza o sempre per motivi di grandi performance, e poi avremo anche versioni turbo diesel, versioni 1500 benzina, quindi la gamma sarà molto ampia per dare la possibilità a tutti di poter godere delle caratteristiche uniche di Formentor a tutti i livelli di motorizzazione, di potenza o di allestimento. Abbiamo cominciato a parlare del tema dell'elettrificazione, 5 miliardi di euro di investimenti per il quinquennio 2020-2025, quali sono gli altri modelli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi? Allora, noi siamo un marchio indipendente, abbiamo quest'anima, no? Che nasce da una città, una delle città più europee che esistono, che è Barcellona, però abbiamo anche un grande vantaggio, che peschiamo la migliore tecnologia di tutto il gruppo Volkswagen. Quindi l'elettrificazione fa parte anche dei marchi Seat e Cupra, e stiamo elettrificando tutta la gamma con tutte le versioni ibride, ibride plug-in, e poi avremo anche vetture completamente elettriche, quindi già dal prossimo anno lanceremo la Cupra Elborn, che sarà la seconda vettura del nostro gruppo, no, completamente elettrica. La prima è stata la Seat Mii Electric. Però diciamo che Elborn fa parte di una generazione completamente nuova, e tra l'altro poi porterà nell'elettrico tutte quelle caratteristiche di godibilità, di sportività e di esclusività che avranno il marchio Cupra, quindi anche potremo divertirci e goderci un veicolo elettrico non solo rispettando l'ambiente, ma anche con altri obiettivi. A proposito di elettricità, da una costola di Seat nasce Seat Mo, parliamo di micromobilità, e anche qui ci sono delle novità che presenterete sul mercato italiano da qui alle prossime settimane. Sì, rimani sempre in ambito di mobilità elettrica, no? E lo facciamo con una costola di Seat, appunto Seat Mo, perché? Perché Seat all'interno del gruppo Volkswagen ha un compito, che è quello di occuparsi della micromobilità, quindi potrebbe essere dell'ultimo miglio, no? Quindi noi utilizziamo l'auto, la utilizziamo fino a un certo punto, dopodiché potremo andare a piedi oppure potremo utilizzare in questo caso il monopattino. E in gamma abbiamo già due monopattini, il primo da 25 km di autonomia, il secondo da 65 km di autonomia, che presentiamo adesso, e sono top di gamma per quanto riguarda la tecnologia, perché parliamo di monopattini con le sospensioni, con pneumatici veri, con la connessione totale al proprio smartphone, con tutte le funzioni possibili, quindi il controllo e la gestione attraverso lo smartphone del monopattino. E abbiamo anche una cosa divertente, perché è opzionabile con diversi programmi di guida come le automobili, quindi abbiamo il Drive Select, quindi normal, economico, sportivo anche per questo oggetto. E poi a breve, perché parliamo di dopo Natale, lanceremo il primo scooter elettrico del gruppo, quindi che sarà una Seat, che è appunto lo scooter elettrico, ma penso che ne avremo occasione di parlare in un altro momento. Veniamo ai due modelli che sono stati presentati qualche giorno fa. In Italia la presentazione originale era prevista a Bilbao, ma per ovvi motivi ovviamente sono state trasferite su sedi nazionali. I due modelli sono la nuova Ateca e Tarraco FR. Cominciamo con l'Ateca. Quali sono le novità di questo modello? Beh sì, purtroppo la situazione attuale con le restrizioni che ci sono ci ha portato da Bilbao, dalla Rioja alla Valpolicella, quindi qui a Verona abbiamo trovato un sistema comunque per farvi testare le auto in modo completo, e qui presentiamo la nuova Ateca, una versione rinnovata in modo profondo sia da un punto di vista estetico, perché mantiene tutte le caratteristiche sportive, dinamiche, la compattezza nelle dimensioni, perché è uno dei SUV di quella classe più corti, ma mantiene un abitacolo molto accogliente anche posteriormente, anche un bagagliaio molto grande, no? Quindi si gode un'auto proprio con caratteristiche congeniali per il mercato italiano. Gran telaio sportivo che mantiene comunque un grande comfort. Perché parlo di queste cose? Perché sono tutti quegli interventi sotto pelle che caratterizzano questo rinnovamento di Ateca. Rinnovamento che si può anche godere all'interno dell'auto, perché prende tutta la nuova tecnologia di connettività e di infotainment del gruppo, quindi l'auto non è più solo connessa attraverso i propri device, quindi smartphone o tablet, ma una connessione autonoma, un top, perché ha una propria SIM. Questo permette di avere anche tutte le repliche delle app, no? Del proprio telefonino, ad esempio nello schermo. I comandi sono touch, sono gestuali, ma sono anche a riconoscimento vocale, quindi attraverso noi interroghiamo l'auto con il nostro saluto, con hola hola, e all'auto si può chiedere appunto tutte le varie funzioni senza distrarsi. E quindi dovremmo parlare in spagnolo alla nostra auto? No, solo il saluto, poi dopo comunque è settabile in tutte le lingue del mondo. E a livello estetico a me piace particolarmente un nuovo volante, che secondo me quando si entra in un'auto, se il volante è brutto si perde tutta la poesia, no? E questo volante multifunzionale molto bello, molto sportivo. Poi ci sono cose, diciamo, che fanno magari meno notizie: abbiamo cambiato tutti gli allestimenti, e gli interni, i tessuti, quindi è migliorata anche la qualità dell'auto. I motori sono stati completamente rinnovati, quindi hanno emissioni molto più basse e quindi anche di conseguenza consumi più bassi, e questo porta a livelli di tecnologia decisamente apprezzabili. Passiamo ad un SUV XL, la Tarraco, che arriva in versione FR a questo punto di cui ci stavo appena parlando. Quali sono le novità su questo fronte? Sì, finalmente abbiamo l'FR anche su Tarraco, che con tutti gli aggiustamenti estetici dà un carattere nuovo a questo veicolo, che è stato molto apprezzato, ma che adesso anche ha una connotazione sportiva, che si trova anche all'interno, perché di serie ha dei sedili a guscio molto belli. E poi anche da un punto di vista tecnologico prende tutta la connettività nuova, prende il riconoscimento vocale, prende tutti i nuovi motori. Il motore di punta passa 200 cavalli, quindi abbiamo anche un miglioramento delle performance nonostante la riduzione dei consumi delle emissioni. E poi dopo a breve la versione ibrida plug-in che stiamo per lanciare, quindi anche Tarraco avrà questa versione sportiva, perché avrà 245 cavalli, ma manterremo il livello di emissioni il più basso, quindi anche a beneficio degli incentivi statali. E poi anche con un'autonomia elettrica di 50 km, che non permetterà solo di fare i chilometri in città in modalità completamente elettrica, ma di utilizzare di questa propulsione per abbassare invece in autostrada o nell'extraurbano i consumi e le emissioni, quindi con dei vantaggi per il cliente. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Pier Antonio Vianello, direttore di SEAT Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Mm.